Come hanno già anticipato Paolo, ma anche Daniele, io sono consigliere comunale qua da Abbiategrasso e sono stata eletta nel 2002. Il mio intervento verterà proprio sul territorio, cerco di declinare tutte le cose che si sono dette questa sera, cercando di offrire uno sguardo dal di dentro, nel senso dall'interno di un territorio. Un territorio che, soprattutto per chi è abbiatense, si renderà conto che è in un processo di trasformazione repentina. E siamo provocati, sollecitati, minacciati da dinamiche che non appartengono alla nostra dimensione, dimensione economica, sociale e territoriale, che in qualche modo, e dico in qualche modo, ci ha connotato per tanto tempo. Questa dimensione che ci ha connotato per tanto tempo adesso non c'è più. E come diceva Paolo e come si dice anche sul testo del volantino che ha sponsorizzato questa iniziativa, si diceva: nel nostro piccolo mondo sta entrando il mondo. E io dico che siamo sospesi. Siamo sospesi tra ciò che non c'è più e ciò che ancora non c'è. E abbiamo di fronte una serie di crisi, di problemi inediti a cui rispondere, a cui far fronte in termini di emergenza. E però d'altra parte si aprono di fronte a noi percorsi possibili, direzioni, modi possibili di gestire questo momento che io considero e definisco di sospensione. Da una parte ci si può aprire e avere il coraggio di proporre cose nuove che vanno sempre di più nella direzione di una speranza, di un cambiamento delle aspettative di ognuno. Possiamo per esempio dare all'abitante produttore la possibilità di intervenire sulla produzione agendo come produttore per realizzare i suoi sogni di abitanti. Penso che sia un desiderio di tutti vivere in una città ospitale o in un ambiente sano, in un bel paesaggio con cibi buoni, in un luogo denso di luoghi pubblici, di relazioni sociali sicure e solidali. Oppure si può guardare indietro e guardare con nostalgia ai modelli di sviluppo industrialista. O ancora ci si può limitare, e questo è un po' quello che si sta facendo e che si sta tentando di fare in questi mesi, si può tentare di ridurre e di limitare i danni e porre toppe a questioni sulle quali non si è in grado di esercitare nessun controllo. E faccio riferimento alla delocalizzazione, chiusura di una fabbrica molto grande qua da Abbiategrasso, che è la Siltal, che aveva 500 operai. Oppure mi riferisco alla costruzione di una grande infrastruttura stradale che, come citava Paolo, potrebbe devastare in modo irrimediabile il nostro territorio. E allora in un contesto come questo, di crisi economica, di precarizzazione del lavoro, dove gli spazi aperti a destinazione agricola, per quanto deboli, sono divenuti una risorsa preziosa e rara per i mercanti di territorio, ma anche per gli attori sociali ed istituzionali che promuovono progetti di sostenibilità e di ecosviluppo, dove appunto le fabbriche chiudono, dove aprono numerosi centri commerciali, ma dove allo stesso tempo si manifestano, e qua ne abbiamo avuto testimonianza, iniziative locali di un altro sviluppo che propongono la valorizzazione delle produzioni locali, una nuova agricoltura basata sulla valorizzazione dei prodotti, un ruolo importante delle commercializzazioni alternative ai grandi centri commerciali, che sono fondate quindi su un rapporto diretto tra produttore e produzione locale e consumo locale, un'economia che tenta di non basarsi più sulla fabbrica a tutti i costi, né tantomeno alla difesa disperata dell'ultimo posto di lavoro in un'industria che sta in crisi, per cui tutti noi siamo di fronte a un'alternativa, o un uso distruttivo da terra o la valorizzazione della terra stessa. Io credo che in questo contesto noi comuni, noi municipi, noi cittadini, noi abitanti di questo territorio non possiamo avere un ruolo neutrale, né tantomeno ignorare un processo di questo genere. Dobbiamo essere, secondo me, degli agenti di parte, ci dobbiamo schierare, perché abbiamo la facoltà di scegliere se valorizzare le risorse locali dell'agricoltura e dei suoi trasformati e di redistribuire queste risorse che sono presenti sul territorio a tutti gli abitanti, a tutti i suoi abitanti. Possiamo scegliere di avere senso di responsabilità e consapevolezza sufficiente per instaurare una nuova alleanza tra città e campagna. Possiamo scegliere di rendere radicale il conflitto tra uso e consumo del territorio per grandi opere ed espansioni e invece valorizzare la terra per un futuro sostenibile. Possiamo cogliere l'opportunità di facilitare un'elaborazione, una costruzione collettiva di immaginari, di scenari di sviluppo condivisi, favorendo e stimolando e trasformando un sapere locale, e oggi, ripeto, ne abbiamo avuto testimonianza di questo sapere locale, in capitale sociale. La produzione agricola è al centro di un altro sviluppo, una nuova alleanza tra città e campagna che permette una riemersione degli spazi aperti attraverso una nuova agricoltura è, secondo noi, necessaria. Ma il territorio non si può difendere solo con l'apposizione di vincoli, come si sta facendo in questi mesi, quantomeno sul nostro territorio, ma richiede di mettere in campo un'attivazione del valore territoriale, un'agricoltura, un'altra agricoltura e un altro sviluppo. È necessario, a nostro avviso, attivare politiche che facciano diventare i suoli agricoli sede di produzioni qualificate e localmente caratterizzate, prodotti di qualità e di prezzo trasparente, fruibili alla fronte o mediante circuiti diretti tra produzione e consumo. E queste sono le principali, proposte e suggerimenti che vengono dal libro che è stato presentato questa sera. Si può decidere di farlo da soli, di farlo singolarmente, si può decidere di mobilitare tutti gli attori presenti sul nostro territorio per questo fine. Abbiate Grasso Città Slow, ricordiamo Abbiate Gusto, abbiamo vinto anche il premio per essere una delle migliori città con le piste ciclabili e che agevola l'attività dei ciclisti sul nostro territorio, però non possono essere solo delle etichette o non possiamo solo attivare politiche di marketing territoriale. Queste cose che noi andiamo a proporre, ma la stessa iniziativa di questa sera dovrebbe a nostro avviso contaminare tutte le politiche di questa città, dovrebbe contaminare le politiche di settore, le politiche urbanistiche, le politiche del lavoro, le politiche sulla formazione professionale, le politiche sociali e uscire da questa condizione di marginalità e di puntualità e occasionalità, perché non può essere solo l'evento di Abbiate Gusto a connotare una città slow. Devono essere tutta una serie di politiche che caratterizzano questa città che viene poi definita città slow. Quello che viene lanciato questa sera, secondo me, è un messaggio che non è lanciato solo a tutto il mondo agricolo. È un messaggio lanciato a voi, è un messaggio lanciato a tutta la città, a tutti gli abitanti di questo territorio, a tutti gli attori istituzionali e politici che secondo me dovrebbero cogliere questo evento per riflettere, per mettersi in discussione, ma per cogliere anche l'opportunità che questo evento può portare. Paolo prima parlava di reti, di relazioni. Queste relazioni sono fondamentali. E come ci si sta ponendo questa sera è un modo che probabilmente spiazza anche i politici, perché ci si sta ponendo dal basso e si chiede ai politici di avere un ruolo attento e così disponibile a cogliere le proposte che emergono questa sera, quando normalmente sono i politici che si sentono detentori di una risposta, di una soluzione ai problemi, oppure si circondano di saperi tecnici e specialistici. Stasera ci si sta proponendo con altre competenze, che sono competenze territoriali, specifiche dei nostri luoghi e che propongono un altro sviluppo possibile per la nostra città. Io avrei finito.